Di nuovo in diretta con lo Special Twice, venerdì vigilia di weekend. Cosa ne pensi di quest'inverno a tradimento, Elisa? Ma guarda, penso solamente che in questi 2-3 giorni è stato tanto bello quanto anomalo avere 20 gradi. Inquietante. Quindi mi sono inquietante, tanto inquietante quanto però ovviamente piacevole, perché insomma, certo, dopo un inverno freddo avere anche 3-4 giorni così di, sì, 20 gradi. Diciamo che non è esattamente quello che ci vuole, anzi no, tutt'altro, ci mancherebbe. Infatti, anomalo. Aspettando una stagione, diciamo così, più legata alla, tra virgolette, normalità e alla consuetudine, godiamo questa intanto. Giustifichiamoci così. Sai cosa sarebbe tremendo? Io mi ricordo di un anno che addirittura tornarono a fiorire i peschi in anticipo, sì, e poi venne la neve. Cioè, quindi ma bruciato mi sa totalmente. Che ci tocca, eh? Il rischio è questo. Speriamo di no, per la natura. Per Beh, insomma, tutto. Se continua così col freddino, io nel piumone con qualche lettura di quelle piacevoli che accompagnano la serata, ben venga, nell'attesa. Questo sì, letargo. Sì, bello tanto il letargo. Il grasso ce l'abbiamo, abbiamo fatto la scorta. E poi, come gli orsi, non devono disturbare assolutamente. Non devono disturbarci, infatti. Allora, ricordiamo che per questo venerdì, il primo del 2016, con lo Special Twice parliamo della rivista Una Specie. Fra l'altro parleremo anche di un importante evento che ci sarà imminentemente, se si può dire. Siamo con, io mi confondo se Carmen, no, esatto, no, ok, perfetto, Rosse. No, infatti, perché non ricordavo se Casale o Consoli. Ah, ecco, vedi. Hai capito, però non c'è, c'è Rossella. A proposito Consoli, di associazioni di parole, vogliamo parlare anche della vanvera? È così, no? Più o meno è come ho fatto io adesso, parlare a vanvera, no? Più o meno. Ecco. Sei portato. Oh, bello. La vanvera è lo spazio ludico della rivista, dove ci sono le creazioni di neologismi illustrate, sapientemente illustrate, dello spazio un po' più estroso, più leggero. Ok. Ma almeno qualcosa di leggero abbiamo trovato, tra letteratura, insomma, anche cose impegnate. Ovviamente c'è anche qualcosa in maniera diversa per distrarci, no? Esatto. Qualcosa da... Ma a proposito proprio di distrazioni, visto che siamo proprio alla vigilia del compleanno di Rivista Una Specie, ecco l'evento. 2 anni, allora parlaci di questo evento che è il 16. È il 15. Allora stasera. Wow, ah, auguri. Bene, sono 2 anni. E guarda bene, Lisa, ti sbagli sempre con le date. Non ne prendi una, voglio dire. Scusate, volevo parlare di questa cosa. Prego, Rossella. Beh, ti perdoniamo. Comunque, sì, stasera la rivista festeggia il suo secondo compleanno. Bene. Farà una festa, un compleanno, però senza pretese letterarie questa volta. Solo vanvere. Solo vanvere, esattamente, solo in quello spirito lì. Sarà una festa in cui ci sarà una pesca del kitsch, quindi ho un invitato... invitato a portare un oggetto che gli hanno regalato a Natale, che magari non gli è piaciuto, di cui sai vuole liberarsene. Noi abbiamo il vicepresidente, che salutiamo, Andrea Gozza, che diciamo è il principe di questi zavagli, quindi noi abbiamo sarà una riffa. Di sentire. Certo, ma è un complimento quello che gli stiamo facendo, perché quando c'è la riffa di Radio Città Fujiko tutti aspettano i zavagli di Andrea Gozza, no? Per cui anche questa sera troveremo un motivo d'aggregazione legato al kitsch e soprattutto una cosa che abbiamo dimenticato, il dove a mia casa in via Zago. Da che ora? Dalle 21:30, quindi diciamo. Sono le 22, conoscendovi voi giovani mai puntuali. Okay. Sono solo io che anticipo di solito. E questa volta, al posto del contest di letteratura, ci sarà un contest di torte per festeggiare. Il vincitore avrà la ricetta pubblicata nella rivista. Perché magari organizziamo anche un cucinogramma tra tutte le realtà che finiscono col gramma, per rimanere in tema, insomma. Allora propongo io un cucchiogramma, così. Cookiegramma, bello, bello. Potrebbe essere, sì. Lo aggiungiamo, non so, magari... Siamo 41, Willy, hai visto? Sì, mi sono aggregata alla rivista. Sì, ho visto. E quindi non sei più con Radio Città Fujiko, ma no. Certo, insomma, sai che quando si parla di cucina possiamo inventare tante di quelle ricette che... Anzi, mi candido come... proporre delle illustrazioni così colorate, così cucina, illustrazioni, veramente cucite col cucchiaio poliedrica come talento. Andiamo in musica intanto, fra una presentazione e l'altra, anche perché così magari quando rientriamo approfondiamo meglio l'evento di buon compleanno per quanto riguarda rivista Una Specie, o Una Specie di rivista, una festa di compleanno. Saltiamo di gioia con Mark Murphy, Jump for Joy. Child, jump for joy. Don't you grieve, little Eve, all the hounds I do believe have been killed. Ain't you thrilled, jump for joy? Have you seen pastures groovy? Green pastures was just a Technicolor movie. When you stomp up to heaven and you see old St. Pete, I tell that boy to jump for joy. Step right in, give Pete some skin, and jump for joy. Hey, fare thee well, land of cotton lyles, out of style, honey child, jump for joy. Don't you grieve, leave all the hounds I do believe have been killed. Ain't you thrilled, jump for joy? Have you seen pastures groovy, groovy, groovy? Green pastures was just a Technicolor movie. When you stop up to heaven and you see old St. Pete, tell a boy to jump for joy. Step right in, give me some skin, and jump for joy. Thank you. really will. Then the cotton lies out of style. Honey child, jump for joy. Don't you grieve, little Eve. All the hounds do believe have been killed. Ain't you thrilled, jump for joy. Saltiamo di gioia assieme a Mark Murphy, stiamo arrivando, già abbiamo varcato il giro di boa, quindi ci avviciniamo al Jazz Live nell'oretta successiva della Forma dell'Acqua Special Twice Jazz Live, ma restiamo ancora qua con la nostra ospite, parliamo di una rivista, una specie di rivista, e questa sera il secondo compleanno. Cosa sarebbe il regalo per la rivista? Qual è il regalo più bello che secondo te può ricevere? L'autofinanziamento che, diciamo, alimenterà i prossimi eventi della rivista, le prossime iniziative. Così passiamo al cartaceo e anche Willy inizia a leggervi per bene, invece di rimanere online, che poi lui ha le sue difficoltà, dove devo andare, cosa devo fare, che poi non è vero, però ci piace così prenderlo in giro. No, purtroppo non è una presa in giro, è quanto mai realistica. Comunque, va bene, questo sia di stimolo sempre per migliorare, che sia un valore aggiunto all'informazione. E proprio qui ti volevo portare, cara Rossella, al grande passaggio in cartaceo, come siamo messi? Ma diciamo che è tra i nostri progetti, ma in realtà lo spazio dell'online è uno spazio primo scelto, anche perché per l'editoria indipendente è uno spazio molto più fruibile. Esattamente, di scambio, così. Però a breve vorremmo diventare associazione culturale e trovare anche il modo per pubblicare una rivista cartacea, una di quelle belle rifinite. Ma sì, ma è bello. Un sacco di bei, no, di belle illustrazioni. L'oggetto è bellissimo, poi dai, la copertina, poter stropicciare le pagine, molto bello, dai, sì. Su. Adesso non voglio fare la solita figura dell'obsoleto. No, beh, ovviamente immagina, Willy, insomma, che i costi del cartaceo non sono ovviamente gli stessi di avere un sito web e anche certo, a livello poi di certo, potersi riuscire a farsi conoscere a livello, insomma, di un sito internet, un po' con Facebook aiuta tanto, si riesce, insomma, a toccare, avere più condivisioni e raggiungere poi il lettore, che è lo scopo principale della rivista. E quindi, se volete dare una mano a una rivista, una specie di rivista, o la rivista una specie, questa sera al Mi Casa, sì, alle 21:30-22 inizia la festa per il secondo compleanno. Va bene anche come spot, no? Possiamo definirlo in questo modo. Proseguiamo quindi a questo punto parlando, diciamo così, un piccolo approfondimento. Dopo la letteratura abbiamo detto musica e cinema. Uh-huh. In questo caso abbiamo un orientamento particolare, oppure è anche a sua volta decisamente a spettro di 360 gradi? È molto ampio, sta, diciamo, a chi scrive scovare delle novità interessanti, qualcosa che può interessare. Ad esempio, nell'ultima settimana c'è stata una recensione sulla cinema della Nouvelle Vague giapponese. Oppure un articolo sulla figura femminile nel cinema, si parla delle notti di Cabiria. Oppure nella musica, per esempio, c'era un articolo sull'inno della Università di Bologna, che è cambiato quest'anno, composto da Ezio Bosso. Ah, e adesso Rossella ce lo canterà in certo, diretta. Mantenendo poi certo un certo vernacolo felsineo, anche esatto, che si ovviamente sente benissimo che lei è bolognese, no? Quindi chiaramente manteniamo riesce le tradizioni. Noi avevamo una rubrica legata a Bologna, fra l'altro. Facevamo poi, sì, ovviamente William ne sa una più del diavolo a livello di dialetto, e quindi facevamo proprio la rubrica legata al dialetto bolognese, quindi davamo una spiegazione sui vari detti, perché io per prima, non lo so, la picaia piuttosto che il rusco, perché il rusco, e quindi insomma tutte queste nozioni molto interessanti. Beh, il rusco è molto bello. A me aiuterebbe tanto da calabrese. Beh, vabbè, mantieni pure l'aspetto calabrese, che magari lo mettiamo assieme a quello felsino e vedrai che è motivo di crescita, indubbiamente. Piuttosto che, io dico sempre, ok, manteniamo, però allo stesso modo conosciamo anche altre realtà, no? Perché da questa intersezione vi è la crescita, non possiamo sempre rinchiuderci in quei recinti, no? Ma pensa che la prima volta che sono venuta a Bologna, casa nuova, suonano, prendo il citofono, sì... Dal tiro? Io, no, non voglio niente, grazie. Era il postino che giustamente voleva il tiro, ma io ho detto, cos'è che ti devo tirare? Quindi proprio l'hai trattato malissimo questo postino. È per quello che non ricevi mai posta da adesso in avanti, vedi? Mi hanno proprio abbandonato. Ti hanno abbandonato. Everything but the girl. Each and everyone. Li conosci gli Everything but the girl? Non conosci gli Everything but the girl? Allora spara, spara al massimo. Dai, dopo ti racconto perché si chiamano Everything but the girl. Everything but the girl è un duo inglese, quindi tutto eccetto la ragazza. Perché? Perché vengono così rapiti da una particolare bellissima immagine sopra un negozio che vendeva arredamento per camere da letto. Lo slogan era questo: noi vi offriamo tutto, beh, però per avere la compagnia, per avere la ragazza, dovete pensare, ovviamente, arrangiatevi. Quindi, Everything but the girl, qui potete trovare tutto, tranne la ragazza, e da lì il nome del gruppo. Vedi la fantasia a volte come riesce anche nella musica a mettere assieme non solo il grande talento, ma anche la bellezza di questi nomi. Per me è molto azzeccato, cioè una bella idea. È vero, funziona. Sarebbero stati anche loro bravissimi trovatori di locuzioni improbabili. Esatto, perché abbiamo la famosa chiacchierata a Vandera all'interno della rivista, di cui abbiamo già parlato, e appunto ci possiamo ricollegare con questo duo meraviglioso, melodico, una grande classe, questo pop soul veramente ricercato degli anni Ottanta. Continuiamo, cara Elisa, con la nostra chiacchierata insieme a Rossella. A questo punto abbiamo già parlato della festa per quanto riguarda questa sera. Ma la festa tocca tre punti molto importanti, cioè come tre punti? Un dress code, cioè no. Non è una festa che vai lì e siete un po' fighetti. Parliamo allora, cioè un dress code, possibilmente se si porta una torta è anche meglio, e poi ovviamente c'è la ciliegina sulla torta. Come dress code, diciamo che sarebbe meglio portare degli occhiali da sole. Possibilmente a sera, più... già io sono così un po' morbo di mio, mettiamo gli occhiali di sole, va ma bene. Devono essere estrosi, è quella la caratteristica, i più trash e beceri possibili, cioè come... si spera anche il resto della serata per divertirsi tutti insieme. Sì. Dovrebbe suonare anche Tony DJ Sauro. Che già dal nome è una certezza per quanto riguarda l'approccio alla serata. Assolutamente, bene. Quindi... È tutto già un programma. Sì, assolutamente, non possiamo mancare. Ma dove, aspetta, scusa un attimo, ripetiamo dov'è. Esattamente, hai detto che questo locale è sotto il ponte di Stalingrado, sì. Il Mikasa, dalle 21.30 alle esatto, 22. Via Emilio Zago 14. Diciamo bene, questa esatto. sera in via Emilio Zago questa 14. Questa sera già dalle 21.30, non siate timorosi, ma sfoggiate i vostri migliori occhiali, portate i peggio regali che vi hanno fatto a Natale, armatevi di torta, quella però buona, perché se no, insomma, la ricetta con voi, giustamente, perché se no cosa andranno a pubblicare di rivista Una Specie poi sul sito? E per una specie di rivista o rivista Una Specie anche un piccolo obolo dai, per poter riuscire a fare il passaggio per quanto riguarda il cartaceo e non solo, anche per autofinanziare questa situazione, no? Quindi siate generosi, siete possiamo generosi. Chiedere in questo modo. Vabbè, intanto la ricetta quella è cartacea, quindi quella ce l'abbiamo, l'abbiamo messa da parte, e poi intanto poi passeremo anche all'online. Anzi, ma se io faccio per esempio una torta, porto la ricetta, mi pagate? No, porto la ricetta, facendo, mi pagate? Ma poi una fetta mi rimane o è proprio così totalmente devoluta a... Dipende quanto avrà successo la tua torta. Brava, mi piace. Perché se no non la vedi. Esatto. Se il successo è assicurato, vedrai che non ti ritorna indietro niente. Questo è garantito. Cara Elisa, tra una chiacchiera e l'altra, ormai siamo arrivati alla conclusione. È volata, Rossella, è volata. O, ti abbiamo messo a disagio? No, assolutamente no. No, in questo momento le sto puntando una pistola, così. No, giusto è dimagrita di 25 kg, non c'è più, ma guarda, è proprio a suo agio, si vede, tranquilla. Anzi, farebbe un'altra ora, guarda, a parlare di jazz. Staresti qui con noi a parlare di jazz? Assolutamente, ci scriverei anche un articolo. Va bene, magari, vedi, poi qui è tutto un magna magna, perché una attenzione, mano lava l'altra, esatto. Quindi possiamo essere ufficialmente il vostro media partner. Assolutamente sì, se poi ci leggete anche ancora meglio. Va bene, questo sarà fatto assolutamente. Intanto grazie per essere stata qua con noi allo Special Twice, l'ho detto bene, vedi. E poi l'appuntamento è per questa sera. Per quanto riguarda i 103.1, l'appuntamento è tra poco con Alfredo Pasquali, i nostri ospiti Eleonora Sole Travagli e Francesco Bettini del Jazz Club Estense Il Torione. Inizia il programma 2016, la seconda parte di stagione. Elisa, cosa possiamo aggiungere? Chiudi tu. Chiudo io? Allora, aspetta, mi preparo. No, in realtà volevo leggere La pesca del Kitsch, perché ricordo... Ah, te piace quello, lo so. Lo so. In realtà riprende la chiusura del vicepresidente degli Stati Uniti d'America che durante l'Expo ha chiuso dicendo: questa è veramente una merda, è una merdaviglia. Ma che è un signore, è un bellissimo, signore, esatto. Proprio veramente. Quindi con questa bellissima frase io chiudo lo Special Twice di apertura del 2016. E diamo appuntamento? Ovviamente venerdì prossimo, sempre 10.30, 11.30. Tu ci ascolterai, Rossella? Assolutamente sì. Grazie per la partecipazione, ciao. Ciao, grazie a voi.